Federazione Russa, c'è, cosa avete stasera? Bubu. Sentiamo un nome di propagazione russa, ci abbiamo. Dimmi tutto. Antonello. Eia, aspetta, sollevo, aspetta. Per FM. È positivo. Mi senti adesso, sì. Sì, abbastanza. C'è tutta la scena adesso di FM, eccetera, eccetera, è un casino. Invece in FM le cose cambiano. Positivo, no, meglio. Però forse mi senti, se mi ascolti meglio. Ora. Sì. 9:25 sei qua. Sì, positivo. Dai. Va bene, ho preso la foto. Se va bene, a voglia. Stai uscendo benissimo, stai uscendo. Questo è una vera sicuri, mantengo una vera sicuri. Sai che chiamo a Cifo di passare FM, aspetta. Mettiti un baracchino FM veloce, vai. 5 minuti quello che parliamo, non ti costa niente. Passa in FM che c'è un sacco di propagazione in AM e non si capisce un affanculo. Passa in FM almeno arrivi bene, solo attacchi quella decametico che c'hai, non ti costa un cazzo. Agganccia l'FM, vai. Siamo infatti in FM, non ti preoccupare. Vai in FM. Io muoviti e attacca in FM che è meglio. Va bene. Ok, sì, lo conosco. È tutto a posto? Sì, abbastanza, diciamo che abbastanza. Più che altro stavo lavorando, poi ho avuto un'influenza, dopo l'influenza la mia ragazza si è pigliato l'influenza anche lei, dopo l'influenza che ha avuto lei, si è preso il Covid, quindi sono prigioniero in casa, hai capito? E sono momentaneamente fermo, se no ho fatto giusto in tempo a farmi l'olio d'oliva dall'amico e mi sono fatto un po' di soldi. Sì, è stato bene, anche io. Anche io volevo raccogliere, c'è un po' di alberi, me lo devo fare. Sono andato poco fa al lavoro, adesso devo riuscire. Sì, è un casino, mica, mamma mia. Con quell'abbattiatore te le fa scendere, le braccia te le fa scendere, guarda. più devi mettere la rete in terra, dopo che metti la rete in terra la casa devi raccoglierla, dopo che la raccogli, se non ne poti un tanto alla, per dire, alla, dove la macina non te l'accettano, quindi non basta, hai capito? E quindi è un casino. E io l'ho fatto quest'anno, la verità, la prima volta. Mi ha giovato un culo, mi ha giovato, ma pure davvero mica. In quell'abbattiatore, se gli alberi che, in pratica che erano portati, sono dovuto salire sopra la scala con quell'aggeggio lì, tipo pettine, hai capito che bava, fatta ta ta ta ta ta ta ta. Dovevi stare molto attento, non sai che ci scendevi scala e tutto. Sì. No, io me ne faccio a mano. Io me ne faccio a mano, la prendo, me ne faccio piano piano. Anche perché non si alberi, non ne ho tanto, però lo matto per casa, hai capito? Non avendo problemi. Me lo voto a mano. E niente. Se sono il microfono a 50 centimetri, la bocca. Va bene, no? E a voglia che va bene. Io se senti qualcosa, la verità, sto usando le MG 95, quello della ZG, anzi l'M95, non l'MG, l'M95 ZG sto usando, microfono a palmare. Ho capito, io ero MG80, va bene. Oh Giulia, io so vedere che problema, no? Voglio un pochino di gas. Voglio un po' di gas, io. Prima sono rientrato. Grazie, di cosa dopo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Cla. Mi senti? Claudio. Che mi sembra Claudio di Musso, sono sbagliato, è entrato anche Claudio Sparviero. Claudio. Dopo io sono rientrato, poi è entrato Sparviero, se lo super saluto, se lo rilancio per venire avanti. Avanti Sparviero, buonasera. Evidentemente non l'ho chiamato. È positivo. No, l'ho portato alla, diciamo, alla fine della linea rossa, capito? Alla fine della linea rossa, deve essere volendo un po' toccato. L'ho portato alla fine della linea rossa. Niente. Comunque quel cavo è perfetto, Quel cavo è perfetto. 22 metri. Ah, va bene, a voglia. È positivo. Positivo. Va bene, per me. Io devo uscire per andare al lavoro. E sono. Sono anche un po' ritardo. Dai, ci sentiamo tra sera se coincide. Buona giornata a tutti. Ciao Claudio, ciao Salviero, ciao Claudio di Muro, se c'è un problema alle prossime. E io, ciao, alle prossime anche a te, non c'è problema. Avanti. Lato Claudio Muros. Pomponio, si saluto anche io l'amico, sì, che sta chiudendo, sì, gli auguro una buona serata, un buon lavoro, ci sentiamo sicuramente alle prossimine. Sì, c'era anche Sparviero, ho sentito, sì, come ascolti bene Antonio con questo Kenwood, con l'850, riprendi? Sì, non è una radio molto amplificata, ma va bene. Sì, col microfono da palmo sono, Antonio, mi devo mettere le MC60, poco fa stavo usando un courier, un valvolare 23 canali, che lo sistemato, che mi ronzava, che è un regalo che aveva fatto Sparviero a Babbo tanti anni fa, e Babbo me li ha dati a me, c'ho anche un aircastle preciso, sono radio americane queste, capito? E la stavo facendo funzionare, pensando che ci sarebbe stata qualcosina in propagazione, che ne so, americani, inglesi, ma tutti russi, ho provato a chiamarli stamattina, ma non mi ha risposto nessuno, non mi hanno manco cagato, perché non parlano una parola d'inglese, ho visto, quindi ci ho rinunciato, ce l'avevo accesa, e la sto facendo funzionare a 12 volte questa radio, questo valvolare, perché ho i condensatori di alimentazione che si alimento a 110 volt mi ronza, capito, mi ronza, e quindi gli devo sostituire, ne ho anche un'altra uguale, una ricastle, molto belle, anche rare da trovare, sono queste radio. oggi, infatti me le sto tutte mettendo a posto, ma le uso a usarle, cioè la domenica, capito, quando c'è propagazione, me le uso e mi diverto, quindi. Tipo radio di chiesa, pensando, là. Adesso ho cambiato microfono, mi senti vecchio? Sì, 9 più 60 di B, ho visto, e arrivi forte, vabbè che siamo in FM, e da poco fa in AM, col courier, ho visto che è quasi 9.30, ho visto, però non lo so se è molto dettagliato, se non smetto. È una radio vintage, credo che sia una radio del 68, del 67 quella, e quindi non è molto dettagliata, tanto segnali, cioè controllo di segnale quella radio, capito, non è, però mi arrivavi forte anche in AM, vabbè siamo vicini anche, capito, non possiamo pretendere più di tanto. Sì, l'altro amico, sì, mi arrivava un Santiago di 7, una roba del genere, in coso, in AM, invece in AM era quasi 9 più 20, ho visto. Sì, poi è entrato Sparviero, non lo so se c'è ancora, provo a chiamarlo, attenzione, Claudio, ci sei? Ti volevo dire, Cla, siccome avevo aggirato tutto sul telefonino, mandami il numero tuo su WhatsApp e anche quello di Carlo, che non ce l'ho. Hai capito, dovuto aggirarlo, già lo sai perché, avevo dovuto aggirare tutto perché sennò cazzo si incendiava il telefonino. Se manda il numero di Carlo e anche il numero tuo, così ce l'ho su WhatsApp e siamo a posto. Manca solamente quello, non manca nient'altro. Quando ne voglio rifarlo non c'è problema, già mi arriva qua. Voce proprio in 27, lo sai perché? Perché sto tenendo una radio con Babbo, capito? E se non parli tu non ci riesco a allinearla in recezione, capito? Ma quando hai tempo, ma fai sapere, ma partecipi a un QSO qua su 10 e mi metto a tarare questa radio, ma perché è un peccato, l'abbiamo toccata nelle medie frequenze, adesso con i segnali quelli che arrivano bassi non riesco a tararla in recezione, quindi ci vuoi tu in frequenza, bisogna una sera che fai QSO per forza su 10. Centrare gli altri, mi è entrato anche il courier qua a casa, quello che gli avevi dato a Babbo, l'abbiamo messo a posto, l'abbiamo, quello che avevo dato per il 430, vedi, per puro caso mi è rientrata nelle mie mani di nuovo, sono molto, molto contento che mi è entrata a casa la radio, riprendi. Chiuso, infatti mi sono dimenticato anche di salutarlo, ciao Gabriele, ci sei ancora, da una cosa all'altra mi sono dimenticato di salutarlo, da me sono più abituato a essere entrare, a poter stare a lavorare, e quindi non so perché tanto il 27. Ciao, buon pomeriggio, se coincide già ci sentiamo ovviamente. Cosa volevo dire? No, io sono entrato di passaggio, giusto, su te stavo provando la radio, volevo giustamente il controllo e sono contento che sta andando bene da quella radio, quindi Antonè. Ah, sta facendo benissimo, sì. Non è problema, ci mancherebbe. Ti sento veramente bene. In forma. Un bel segnalone, figurati tu. Quando parlano in digitale, in DMR, con quelle cose praticamente li decodifico direttamente dal computer per ascoltarli i radioamatori, quindi. Ah, ok, boh, perché ce l'ho anch'io su per questo. Io ho lo VCPR T Plus, ne ho due di quelli, poi ho gli 888. Poi gli altri li ho tutti regalati, mi è rimasto solo un Baofeng originale. 888, c'è anche il prezzo addirittura, 19 euro. Anzi, 17 ha preso a testa. 17 euro. Ce l'ho qua a casa. Se vuoi venire a prendertelo, vieni, te lo prendi, mi dai 17 euro e te lo porti via, è nuovo, nuovo, originale. Devi solamente comprarti il CD e programmatelo, non devi fare altro. Sì, questo è, no, ce li ho già, non è quella radio, c'ho un UV5R della Baofeng, un UV82, ciò che tira, mi sa un 10 watt, una cosa del genere, poi si scaricano subito queste radio, visto come fai 5 o 6 passaggi, se li metti ad alta potenza si scaricano, sì, c'ho anche i CD quelli per programmarli, una me la sono fatta, io ho eliminato la banda, quella 400, con il CD me la sono riprogrammata e me la sono fatta 200 MHz, mi ascolto qui quei satelliti, dove ci sono quei pirati, quelli della Satcom, perché siccome ho visto la frequenza quella 261, quella lì, parlano a volte dell'italiano e me li ascolto ogni tanto, capito, la mattina, perché fanno questi o la mattina e ogni tanto me li ascolto, questi qui che fanno delle prove, ho visto, addirittura gli hanno fatto anche i video e li hanno messi in internet a questi pirati e si sono anche un po' incazzati, ho visto, e ci sono belle cose, l'altro è originale quello che ho, quindi poi c'ho un Icom che però mi è caduto per terra, non è funzionante, come che scatto si chiama, un EC91 il modello, che è molto più sofisticato di queste, ho visto, andava meglio quello, solo che mi si è rotto il come si chiama dell'antenna e non funziona più, e poi cercando di smontarlo a vedere cosa era successo mi si è rotto il cavo flat, anche quindi non mi accende, quindi ci vuole messo anche il cavo flat nuovo, riprendi. No, ho capito, quindi sì, vabbè, no, io ne ho 4 di qui, anzi 4, 6, 2, 8, 8, 2 li ho regalati, 2 li ho regalati a Coso, a Lello, 2 a mia sorella, come sono rimasti gli EV5, 2 EV5 doppi plus, e 2888 più un altro che originale cinese, e più c'ho questo che sento ogni tanto, che per la macchina vado vicino al vostro e basta, piccolino, si chiama Jung, non mi ricordo come diavolo si chiama, comunque mi è rimasto solamente quella roba lì. QSL, no, io li ho presi la volta, mi pensavo che arrivavo in PMR con l'antenna della CB, ma niente, ma manco arrivo, Antonio, manco vi sento, quando parlate a volte con questa antenna che c'ho sul tetto, perché ci vuole l'antenna per quella banda, io li avevo comprati e mica cosa ci ascolto, ogni tanto qualche bambino piccolo che ha amico i portatilini, mica sta dicendo cazzate ogni tanto, ma manco ci vuole, è giusto parlare con i bambinetti nella radio, capito, e li ho presi, ce li ho, ogni tanto mi ci ascolto qualche animatore, perché mi hanno comprato il, come si chiama, il connettore per attaccargli l'antenna, perché in VHF questa della CP un po' riceve, ma poca roba, perché come lo sposto perde segnale ogni tanto, quindi mi conviene ascoltarmi sul computer e ce li ho fermi, è un acquisto inutile quella radio, praticamente, perché non me le posso manco portare in giro, perché come si chiama, la licenza di radioamatore, ti chiedono se te la beccano e se non ce l'hai ti mettono la multa e succede casino, quindi manco se devo da casa, una volta me la sono andato a comprare il connettore da Milano e avevo incontrato anche a Sparviero il giorno e me li avevo portati a spasso in tasca nascoste per vedere se ci andava bene il connettore, capite che connettore ci voleva, capite che poi ho scoperto che era un SMA, quindi femmina, capito, e l'ho comprato, però non ci ho mai fatto attività radio, scusi, così, la verità, capito, anche perché all'epoca non c'era, si poteva parlare, che c'era questa cosa della tassa di 12 euro, ma manco adesso, perché non sono manco omologati di potenza, capito, sono radio fuori legge, capito, infatti chi le ha deve essere per forza radioamatore, trasmetti cose in frequenze dove non devi andare, ma per tenerle a fare ascolto le puoi benissimo usare, capito? Basta non dirne a nessuno, riprendi. Ho capito, guarda. Senti, questo è originale. Microcat, va. Sì, 5 SL, Antonio, ma TV5R, il tuo, come quello che ho io, è nero, tutto nero, c'ha il pulsante arancione al centro, ed è, cioè il modello quello che è tutto nero, poi hanno fatto un modello con la plastica cromata, avevo visto in internet, li stanno facendo anche con più cura di queste radio, ho visto che tirano anche 19 watt, una cosa vera, una cosa che attaccarla, un po' smetterò. Quello, il V5R mi tira intorno ai 4 watt e mezzo, 5, l'altro tira 10 watt, però si scarica subito quando lo fai modulare troppo, visto perché l'ho attaccato al rosmetro, e mi hanno fatto tante versioni, e poi li hanno fatti anche DMR, ma quelli DMR non servono un cazzo, non servono, no? Guarda, te lo sconsiglio di comprarlo anche, perché è tutta una roba diversa da quello che usano i radioamatori, capito? Perché i radioamatori hanno questi della rame di questi qui che sono più sofisticati, perché anche per parlare poi col digitale ci vogliono anche delle licenze, ho visto, non so come funziona, e io non ho le decodifiche che me li ascolto dal computer quando parlano. E cosa volevo chiederti? Ma quello che tu qual è? Quello tutto nero come quello che ho io o cromato il tuo, Antonio, interrogativo? Il mio è tutto nero. Poi c'è anche quello cromato che c'ha il pulsante arancione a un fianco sotto a display verde. E poi c'è là il pulsantino A e B. Cioè, in pratica, lo V5 Eco Plus. E sono 5 watt, a voi da che portano questi. Io da qui parlo tranquillamente con il capo Torres. Gommino con gommino, figurati tu. E addirittura l'8-8-8 è ancora meglio di quello. E cresce veramente forte. Ma col gommino, cazzo, è la prima parola che sento, ma la terrazza col gommino parli, perché dentro casa mi sembra impossibile, Antonio, tu c'è la terrazza, vedi cosa che non ho io, capito? No, io quello che ho è tutto nero, sono tutti due neri, però sono le vecchie versioni, quelli che i primi che avevano fatto, li avevo presi a seconda mano, da questo camionista li avevo presi, che me li aveva venduti su internet, mi ha dato anche ciò le cuffiette, come se mi avevo comprato il CD per mettermi le frequenze che volevo io, capito, però non ci ho mai praticato con questi cosi, però mi stai dicendo che arrivi a portare con un gommino, guarda, sono attendibito di questa cosa, è la prima parola che sento, forse dalla terrazza però ci parli col gommino, perché mi sento antenna, mi sembra impossibile, mi sembra, cioè io non riesco ad arrivare a Sassari da qui che sono vicino, cioè come si spiega questa cosa, riprendi? Mi spiega perché io sono libero, sono in alto, e quindi in linea d'aria, da qui alla chiesa dei Balai, c'ho in fronte, il discorso è quello, per arrivare a casa tua c'è un fosso, c'è, lo sai, tu sei in un buco, a meno che non parlo della scala di gioco, se parlo della scala di gioco, tranquillamente è casa tua, tutto lì. Sì, si può essere, anche quello vuol dire molto, come stai dicendo tu, no? Io ci sento qualche bambinetto che c'ha, però sui primi canali mi ha 0,031, quel canale lì che mi appare su display, non so manco che canale sia, se il 2 o il 3, ogni tanto ci sento qualche ragazzino che parla, ma manco ne schiaccio portanti a parlarci, cioè perché sono bambini di 7-8 anni, mi capito, che c'è, cioè, che argomento posso approfondire con un bambino, capito, io ho, capito, quasi 30 anni, e non mi metto a parlare con i bambinetti, capito, cosa volevo dirti, sì, però sono belle radio, le stanno facendo con cura, ho visto su internet, addirittura ho visto che hanno aumentato le potenze su questi apparati, anche a 19 watt li hanno fatto, e costano poi una cazzata, costano, infatti fanno spendere molti soldi, guardi, cambi l'antenna e sono convenienti, non dico che hanno la stessa ricezione che può avere un apparato della ESU, della Kibo, di portatile, però da meritano e lì come vedo quello che mi si è spacciato era meglio, perché quello c'è anche la M, cioè, si poteva ascoltare anche la banda aerea, invece questo c'ha le frequenze della banda aerea ma è FM, non si sente un cazzo, infatti quando metto a ascoltare la banda aerea, ascoltare gli aerei, cioè in FM, già si sente ma non si capisce una mazza di quello che stanno dicendo, capito? E infatti è brutto per quello, perché è penalizzato, vuol dire che non gli hanno messo la M, magari se gli avrebbero messo la M queste radio erano un po' più carine, solo che non le posso portare in giro, perché se me le beccano, capito? E infatti ce li ho messe me sopra un mobile, ce li ho spente, a terra di batteria e non le sto più accendendo neanche perché ho quel pennino per fare ascolto, quindi sono di come si chiamano, li utilizzo, mi capito, e vedi, però mi sarebbe piaciuto arrivare in PMR almeno a Sassari, capito, non dico a Porto Torres ma almeno a parlare con Sassari, ma o è negativa come zona per quelle frequenze, tanti fattori ci possono essere, capito, in PMR guarda, l'unico collegamento che ci ho fatto lo sai com'è, dalla CB praticamente quest'estate ho agganciato un ponte che non so che era della Corsica, questo era messo sul canale 12 o 13 della 27 ed era in FM, ho provato a parlare con questi, mi hanno risposto e questi quando io ho schiacciato la portante non ci volevo credere, mi hanno detto che loro non erano in CB, che era un ponte ripetitore, che erano in PMR, ho pensato che mi stavano prendendo per il culo, all'inizio infatti mi stavo incazzando, mi stavo, poi mi hanno detto a fare la prova, vabbè, mi hanno detto il canale, che mi sa che era, mi sa la frequenza 093, che non so che canale è, della PMR, che era collegato su questa frequenza, ho acceso uno di quei pop-ang e quando ho schiacciato, che ho mollato il come si chiama, capito, ho sentito appena di come si chiama, però non ho sentito la mia voce, però ho sentito appena il come si chiama della propagazione, mi piaceva, capito, sono uscito un attimo fuori e capito, gli ho dato a schiacciare la portante, come si chiama, e ogni tanto ho visto che rientrava appena di segnale nella frequenza, capito, però sono rimasto incredulo di questa cosa e infatti ho pensato anche che mi stavano prendendo in giro questi, poi era vero, ho visto, perché avevo visto anche una roba in internet, capito, e l'unico collegamento che sono riuscito a fare è quello, il PMR della 27, riprendi. Comunque 081-25, dove parlano tutti, figurati tu, c'è un sacco di gente sul canale 7 che parla, la può ascoltare, ce l'hanno tutti ormai, la televisione, tutti ce l'hanno, tutti gli altri canali sono tutti quanti agibili a tutti, hai capito? Invece dopo il canale 8, vai verso canale 10, canale 11 e 12 c'è la Francia, la Corsica c'è. Sì, QSL, l'ho visto, poi ho visto questo sito, ho visto che in internet questi francesi, capito che parlano anche oltre di quelle frequenze lì, che c'hanno una frequenza che se non me la ricordo di preciso, però non ci ho mai sentito nulla, Antone, quando sono uscito anche fuori, mi vicino alla piazzetta, me lo sono messo in tasca, me la sono correndo anche dei rischi, che qualcuno me lo vedeva, però non ci ho sentito nulla, la verità, anche all'aperto, ho provato anche a cambiarle l'antenna, ci ho messo un'antenna di quelle, come cazzo si chiama quell'antenna che ho comprato, una Nagoya, che non so se la conosci questa antenna, gli ho messo una di quelle, di quegli antennini per migliorarle la ricezione, perché quel gommino che c'hanno di serie non serve un cazzo, cioè è sordo quel gommino, e bisogna sostituirglielo, però non ci ho mai sentito nulla, la verità, manco a voi di Sassari quando state parlando, addirittura, non me lo posso manco portare in giro, vedi, perché vedi, almeno, vedi, se sapevo che qualcuno lo usava, vedi, molte volte quando vado a fare la spesa, me lo sarei portato appresso quando vado a Sassari, vedi, almeno a fare due o tre passaggi, ma non me lo posso portare in giro, anche perché sono penalizzato, quindi. Mettiti una bella X300, vedrai come ascolti tutto, una direttiva come ce l'ho io, quella che pesa in acciaio, quasi 3 kg e mezzo, la punti a Sassari, hai voglia che senti. Sì, lo posso immaginare, ma non c'ho posto nel tetto, capito? A meno che non la metto Antone nel tetto, questo dove c'ho la mia stanza, che è libero, però capito le tegole nuove, capito, non lo so se me la fanno piazzare, perché l'altro è un casino, mi credo, abbiamo piazzato l'antenna della CPC su tutte le tegole marce, infatti lo dobbiamo rifare il tetto, perché è un tetto vecchio, capito? Infatti ogni tanto che salgo a fare manutenzione a questa antenna, sfasciamo sempre qualche tegola, sfasciamo, e per fortuna vedi che ce ne abbiamo di scorta, altrimenti c'entra l'acqua in inverno. È un casino anche a salirci, perché messa in un punto, qua questa antenna della CP che non viene bene manco a operarci, capito? Perché rischi di cadere, capito? E poi non sai cos'è, l'ultima volta che l'abbiamo piazzata ne sono sceso, guarda, che sembravo una ragosta da quando ero rosso, perché ho preso tanto caldo, ho fatto il giorno, e poi per tararla, capito, ci siamo portati lì, quei portatilini ci siamo, e poi l'avevo messo sul ponte, quello di Villanova, che la frequenza era, mi sa, 431-237, una roba del genere, che mi sa che è un link nazionale, tipo il 27555 che abbiamo qua sulla 11 metri, che si fa la chiamata lì, mi sa, e mi sa che funziona così quella roba dei radioamatori. Ci ho sentito un sacco di radioamatori di continente su quel ponte, e infatti come sono salito sul tetto riceveva la bomba, me li stavo anche ascoltando, me li stavo, e dicevano bene come radio, però sono fatte in maniera economica, questi bowfang, ho visto, però per la cifra che vengono, vedi, per sperimentare, per fare, vanno molto bene, addirittura ho visto che li utilizzano anche per fare dei ripetitori di quei Parrot PMR, che non so se ce li presenti, addirittura mettono questa scatola, ho visto, prendono questi portatilini, ci incassano dentro, ho visto, e poi gli fanno un collegamento che si può entrare anche dal cellulare, ho visto, però non ho idea di come facciano, ripeti. Sì, questo neanche io comunque. Adesso fa un po' di giorni devo salire sopra il tetto, quindi prendo la direttiva, la giro e la punto lì a muro sulla punta. La giro, allora, siccome da qui vedo Orsi, quindi la giro dove c'è la pizzeria e quindi la punto lì. Questo scuola di gioca, quindi ha voglia che ti piglia in pieno. Così almeno la prossima volta, quando se hai voglia, dobbiamo fare la prova. Così almeno ti ascolto, in direttiva, in verticale. Io ho questa della cipilla, non so se va bene, però una prova mi sa l'avevamo fatta, mi ricordo, e non arrivavo, Antone, non riuscivo neanche a sentire a te, forse perché non stavi usando quella direttiva, non so che antenna stavi usando, ma cosa c'è il rotore per questa direttiva? Avevo il rotore prima, e quando la giravo verso Alghero sentivo tutti quelli che parlavano sul traghetto, figurati lì. Quindi vedo se c'è una bella ricezione con l'antenna. Io voglio provare, capito? Infatti la voglio provare questa cosa, vedere se arrivo, però vedi, se non riesco a sentire gli altri, con chi cazzo parlo, c'è anche quello, c'è cosa sento solo a te, capito? A me mi piace sentire anche agli altri che modulano, vedi, non so come migliorarla questa cosa, non so se c'è la zona, poi non è favorevole, perché la 27 non ho problemi, arrivo ovunque, ho visto, arrivo anche all'Isola Rossa, ho visto a Bonnannaro, quelle zone lì sono aperto, anche all'Isola Rossa capito, è difficile farlo, addirittura ho parlato poi in banda laterale, sono riuscito a parlare con quelle zone di Olbia, Lura, su quelle zone lì perché sono aperto, capito, poi in PMR non riesco ad andare oltre, non so se è perché sto usando l'antenna della 27, guarda, tante cose possono essere, perché non è che sono molto esperto per quella banda, Antone, capito, riprendi? Ho capito, andavo a dire che io comunque ho parlato con parecchi traghetti lì quest'estate di Alghero, addirittura quest'estate su canale 10, 11 e 12, e neanche ne sapevo, ho parlato particolarmente con l'acustica, l'ho parlato anche in diretta, non solo l'altro, l'ho traslata, e quindi non è una balla, hai capito? Io nel punto in pratica 4 metri più giù della Mantova, cioè proprio il buco della costa. Quindi figurati tu, se io dovessi spostare la Mantova da dove è, per sala dove c'è l'antenna della VU, io parlo tranquillamente con la Corsica tutti i giorni, te lo dico io. Sì, può essere, lei mi è difficile, penso, parlare con la Corsica, Antonella, cosa l'ho fatta da poco nella Corsica, in 11 metri, in quelle frequenze più alte, in banda laterale, in USB, in lingua inglese stavamo parlando, ho parlato con questo operatore, Patrizio si chiamava, ho parlato da poco, mi ha mandato anche la cartolina QSL, perché io sono iscritto su questo sito che si chiama Cluster DX, capito che ti fa l'iscrizione, praticamente tutti i collegamenti che fai, capito, con l'indicativo, perché devi avere l'indicativo, devi essere iscritto anche a un radio club, io sono iscritto a quello di Marsala, al club, quello Whiskey Mike International, e cioè l'indicativo 165 Whiskey Mike 102, e sono registrato nel sito, mi ho messo le foto anche dei miei apparati, delle cose, e lì ci scambiamo le QSL e devi compilare poi il come si chiama quando fai il collegamento, un post, praticamente mi appare tutta la gente che sta modulando, no? E tutti i collegamenti che ha fatto la gente internazionali, e ho parlato anche un sacco di volte con l'America, col Canada, capito? Io ho collegato un sacco di volte il Qatar, ho fatto da poco, e la Giordania, il Libano, tutte quelle zone lì, poi ho parlato con questa isola che è vicino al Madagascar, questa isola della Riunione si chiama, e mi hanno mandato anche le QSL nel sito, e c'ho anche quella della Corsica, mi hanno mandato anche quella della Corsica, l'ho fatta da poco, però in questi giorni non ci sta ascoltando nessuno. Ieri ho fatto un collegamento di una M qua col Kingwood, però non ho capito questo da dove stava modulando, perché il segnale andava e veniva, capito? E un altro collegamento con l'America ho fatto l'altro giorno, che stavo usando il Courier 23 canali, e ho parlato con l'America, con gli Stati Uniti, con questo posto North Carolina si chiamava, questo posto, perché non ho idea dove sia, se nel coso, nel Texas, poi in quelle zone lì credo che sia, o vicino alla Florida penso. Comunque ho parlato con questa zona dell'America, lo stesso mi ha mandato la cartolina, e ho fatto il collegamento in AM con il Courier sul canale 20, riprendi. Si chiama non Carolina, Carolina è un nome strano, come comunque sia. Ma hai fatto un sacco di collegamenti beato te. Io non mi ha pentato di nient'altro, la verità, Quindi figurati tu. Comunque c'è preparazione. C'è sempre gente su canale 11 della Corsica, io adesso. Ogni tanto sento qualcuno che parla in diretta, quindi figurati tu, l'antenna è bassa. Adesso la sollevo. Appena salgo lo sopra al tetto per fare l'impianto dell'antenna TV, salgo anch'io e mi sollevo l'antenna di 2 metri. Quello là sento chiara. Guarda, qui ci sono. Mi c'è anche nessuno. 9.70. No. Non c'è anche niente. Niente qui. Ok. Se parlo io li sento. Andà bene. Sì, QSL, collegamenti ne ho fatto parecchi quest'anno, più dell'anno scorso, non lo so perché, forse perché ho migliorato con l'antenna della ricezione, può essere tutto, ma quest'anno c'era anche un caldo tremendo, e in estate ho parlato anche con questo posto dell'Africa, che se non mi ricordo dove era, c'ho anche la cartolina, perché Roberto Quadrato è rimasto allibito quando l'ha vista, perché non ci voleva credere, poi mi ha detto un'altra cosa, che era difficile collegare il Vaticano, no, in 11 metri, che non c'era riuscito manco lui nelle bande di radioamatori. Antone, mi sono svegliato, così una mattina, verso le 10:30, vado su quei canali alti, mi ha 27.900 e qualcosa, e 130.000, no, cazzo, provo a collegarlo, e questo è il Vaticano, Antone, questo San Piero si chiamava, con un indicativo, com'è che era? Aspetta, era 138 Alfa Tango 101, una cosa così, no? C'ho la cartolina e la QSL del Vaticano, infatti quando l'ha vista sarà un pezzo, era incredibile, era un sacco di cose strane, di collegamenti strani quest'anno ho fatto, e ne ho fatto veramente tanti, e poi sono stato penalizzato nel periodo di luglio perché stavo lavorando con mio padre, capite, quindi non avevo molta voglia di stare attaccato alla radio, perché mi dicevo, avrei avuto anche più tempo in quel periodo che c'era anche molta propagazione, avrei fatto anche qualcosina in più, perché avevo più tempo, perché se cose oltre vedi che avere il tempo, ci sono degli orari anche a fare questi collegamenti, poi devi conoscere la lingua, vedi, parlare bene l'inglese, perché gli italiani che entrano lì, perché cioè, che parlano l'italiano già ce ne sono, che sono colti anche di altre nazioni, ma la maggior parte parla in inglese, quindi se non separare la lingua si è penalizzato, perché molte volte anche io sentivo gente parlando in inglese, ho provato a contattarli ed erano la maggior parte scortesimi. Infatti mi dicevo, amici, sono gli americani, vado a collegarli, mi rispondono, ed erano sempre dalla Scozia, e gli americani di solito li collegano, sai dove? Sul canale 38 in LSP, in Lima Sierra Bravo, che ci sono ogni sera, invece li ascolti verso le 4:30, 5, perché loro parlano verso quell'ora, capito? Infatti io ho l'orologio adesso col fuso orario, un Rolex gemmeticcio, capito che me l'hanno regalato, quindi adesso infatti in America, cioè se qua sono le 3:35 passate, lì sono le 9:35 di mattina passate, quindi ancora è presto per fare collegamenti radio, al massimo devo essere mezzogiorno, una cosa così da loro, e capito, per fare collegamenti, quindi è un po' presto ancora, capito, però ne ho fatto, e quest'anno ne ho fatto, il Brasile purtroppo non sono riuscito a collegarlo ancora, l'ho sentito, ho provato un sacco di tentativi a provarci a farci il collegamento, ma non sono riuscito a arrivarci, anche mettendo il lineare a manetta, ma niente proprio, non era favorevole nel momento, spero di farlo il prossimo anno in propagazione, riprendi. E voi come dare il Brasile, vedete sul canale 9, normale. Vai lì, la sera verso le 8:30 di notte, 8:30 delle 9, e senti il Brasile, 9:10, che arriva. E non c'è nessun problema, parlano tutto in spagnolo, parlano. Sì, sì, questo è lei, ma anche cos'è? La M, la FM, l'SP, che cos'è, Antonio? La M. Adesso ci provo, vedi, no, io li ascolto, mi su quelle bande alte, sono tutti in banda laterale, capito, è pochi che modulano in FM, ce ne sono, però riesco a arrivare, vedi, ne ho fatto collegamenti, guarda, l'Europa l'ho quasi collegata tutta, penso, l'unica cosa che mi manca, penso che sia, lo so che cosa, vabbè, la Danimarca l'ho fatta, la Finlandia, la Norvegia, quelle le ho fatte tutte, l'Europa penso che mi manca, guarda, quelle zone andando, qualcosa ne so, verso, come si chiama, verso dopo la Polonia, lì, le cose Bielorussia, quelle non le ho mai collegate, quelle cose lì, infatti spero di farle in futuro, ho fatto la Serbia, la Jugoslavia, quelle zone lì le ho fatte tutte, la Grecia, e vedi, il Marocco collegato, il Marocco l'ho collegato 2 o 3 volte, ho parlato con questo tipo di Casablanca, con questo marocchino, con questo Mohamed si chiamava, come il nominativo indicativo non me lo ricordo, e stavo parlando con questo, e dice che gli arrivavo 5-7, poi mi ha detto le condizioni meteorologiche, cioè che da loro stava facendo così un'aria fresca, cioè che c'era freddo in estate, da loro addirittura, quindi non so se era una cosa veritiera, perché da noi stava facendo un caldo il giorno, ero anche mezzo nudo quando ho fatto il collegamento, e mi sembrava strano che da loro stava piovendo, e come mi ha detto questo qui, capito, Antonio, però l'ho fatto il collegamento, gli arrivavo 5-7 a questo, e poi ne ho collegato un altro che era diverso, sempre dal Marocco, e ne ho fatto, invece l'Algeria e quelle zone lì non le ho mai fatte, non so perché, forse perché non c'è gente che ci modula, tante cose possono essersi, e poi sono riuscito a parlare con Villasor in propagazione, con questo amico di mio padre addirittura che c'ha il baracchino, mi ha detto il nominativo questo, che mi ha detto sono Piero Alfa Bravo da Villasor, io ci ho parlato in telefono anche con questo qui, e mi sono detto questo nominativo non mi è nuovo, e poi con questa persona non ci ho mai parlato, allora l'ho telefonato, l'ho detto, e io l'ho detto a vedere se faceva così, il nominativo me l'ha confermato, Antonio, ma cosa, ho fatto dei collegamenti allucinanti con quest'anno, ero anche incredulo di queste cose, riprendi? Figurati, no, io fare collegamenti no, Non è solo, è solo a voi alla vetta. Due sentiti, americani, brasiliani, spagnoli, argentini, quelli che sono, la Russia, loro anche registrati, i russi, la Polonia, cosa del genere, ma non è battuto un cazzo. Oramai non mi interessa più niente fare collegamenti, sono passati più di 20 anni, ma Gianni, ma senti? Hai visto, hanno cambiato frequenza? No, come è? Questi sono i cosimi, i vigilanti, sì, sassari. Addirittura, vieni a ricerca di cose, frate, tu che sei lì, che senti qualcosa, non qua niente. Una volta che ho sentito gente lì che stava cacciando cinghiali, perché qua nella montagna sopra dove abito io è pieno, addirittura scendono anche dentro il paese di notte, siamo qui invasi di cinghiali qua. Ho sentito dei cacciatori, mi sono le 4, le 5 di mattina, quando ero sveglio in estate, però capiteranno sulla frequenza, cos'era quella, 446, andando verso me, quella frequenza che mi hai detto tu poco fa erano. Ho sentito di questi che stavano con i portatili, ma gente così, i ragazzini, poi ci sento, vedi, poi non sai cos'è, questi vicini, no, questi che mi hai detto, anche bisogna sapere la frequenza, capace, magari ci arrivano pure, Antone, però invece non hai la frequenza, vedi, è anche come procurartene un casino, perché devi fare anche molto ascolto per procurarti quelle frequenze, poi ormai sono tutti in digitale, con questi sistemi, cose che hanno il tetra, questi digitali citografati, capite? Perché sono diversi da quelli che usano i radioamatori, perché anche se provi a decodificarli, questi segnali radio, cioè li senti tutti impastati parlando, non se non si capisce quello che dicono, come che non hanno voce, perché quelle radio dentro hanno una scheda, capito, Antone, capite? Sono tipo un cellulare, quelle radio, hanno delle radio della Motorola, quindi quelle. È di un casino a sentirli, riprendi. Già lo so, dillo a me. Lo so. Sono DMR, si chiamano quelli. Sì, può essere DMR, sì, però sono diversi da quelli che usano i radioamatori, poi ce ne sono di quegli altri, ne ho codificato poi un altro di segnale che era messo vicino alla banda del DMR, decodificato un altro, erano quelli che fanno quei controlli della Vigipol, no, che controllano come si chiamano i negozi, quelle cose lì, e stavano a fare il DMR, li ho decodificati, addirittura stavano controllando la, come si chiama, la stazione di Pullman, ho visto quelle cose lì, e hanno la frequenza vicino a quella della PMR, li avevo decodificati, ed era in DMR, infatti quando schiacciavano il pulsante faceva rrrr, così, e poi una volta decodificati, parlavano tranquillo, come se stanno parlando in un telefono, mi sentivo, riprendi. Ho capito, aspetta un attimo che... Panico che sta dando dei problemi con l'Olanda. Come dice, ci viene troppo vicino e quindi non segna. Aspetta un attimo. Devo cambiare l'antenna, aspetta un secondo. Sì, sì, QSL, fai, fai Antone. Capito, sì, ma c'è anche un analogico che parla, ce n'è ancora, addirittura avevo sentito anche quelli della Guardia Costiera, avevo sentito di quelli, di quelle imbarcazioni della Guardia Costiera che hanno la frequenza nella banda quella marittima, capito? E li avevo sentiti anche quelli, quelli che controllano le barche, che chiedono i documenti, addirittura avevo sentito un sacco di cazzi degli altri, avevo di cose anche vedi che non bisogna ascoltare, sì, su quelle frequenze, sì, e quindi che in analogico ancora ce ne sono di cose, ho visto, è però poca roba. E lo so, anche in foto. E nelle pd c'è gente comunque, aspetta un secondo. Io sono qua. Visto attacco la verticale che ti ho attaccata l'antenna. Io da bravo da bloccati quell'altra che mi hai detto della della PMR, sì, però in PMR una prova l'avevamo fatta, ma non sono riuscito né a sentire a te né neanche a farmi ascoltare io, quindi, perché ho solo quell'antenna ed è un casino, sono penalizzato a metterne un'altra, quindi non so se riesco a capito, però tutto è possibile, non capito, sono ottimista su queste cose, riprendi. Sì, non ti preoccupare, già come stava anche una parte più preoccupare. Allora, adesso sto parlando io, il PMR, la stazione, l'ho sottovotto, ok, quanto è l'antenna, aspetta un secondo, adesso ci siamo. Claudio sei sparito. Ok, va bene.